Ondivago, un programma ideato e condotto da Max Ponte, alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Ondivago.com. La scatola delle lettere. Ondivago, cogliendo gli eventi prima e durante il Salone del Libro, da poco concluso, ha confezionato una scatola letteraria con prodotti diversi per alimentare la curiosità dei lettori. Quattro realtà legate ad attività dirette col pubblico. Partiamo con l'Azione Azzeni, curata da Francesco Forlani. Passiamo ad una pubblicazione a base di segnalibri della casa editrice La Vita Felice, con Diana Battaggia e Silvia Rosa, e proseguiamo con due iniziative che muovono dalla vita di quartiere per proiettarsi altrove: l'esperienza di Cooperativa Letteraria e quella di Andrea Bolfi. La carta con cui viene confezionata questa puntata è ancora quella della mappa della città di Torino, che non cessa di proporsi come città letteraria italiana per eccellenza. Francesco Forlani, scrittore ed instancabile creatore di eventi e pubblicazioni, è colui che ha concepito l'Azione Azzeni. Si tratta di una serie di incontri che si sono tenuti in libreria, volti ad indagare l'opera di Sergio Azzeni e a promuoverne e diffonderne motivi e contenuti. Sergio Azzeni, romanziere e poeta, è legato alla sua terra di origine, la Sardegna, che costituisce l'ambientazione delle sue narrazioni. La sua opera più nota si intitola Passavamo sulla terra leggeri. Azzeni, nato nel 52 e morto nel 95, lascia un'eredità notevole per il suo impegno civile e intellettuale per la ricerca narrativa e linguistica. I libri di Azzeni sono editi dal Maestrale, troviamo sul web anche un sito ufficiale a lui dedicato. A Francesco Forlani il merito di aver concentrato l'attenzione su Azzeni con una iniziativa che lui stesso ci descrive ad Ondivago. Guarda, ti dirò, ma sai benissimo, no? Quanto conti l'energia nelle cose che si fanno. E a volte non basta l'energia. Quante volte, no, abbiamo assistito, organizzato le cose che la cui energia, no, poteva liberare effettivamente un'energia almeno, no, duplice. E questo avviene soltanto nelle alchimie dei luoghi, delle persone che vengono, no? E devo dire, la cosa che mi ha colpito è che quell'Azione Azzeni l'abbiamo immaginata, io l'ho pensata a un certo punto come necessaria. Era il timing di cui parla Deleuze, che è quello dei jazzisti, sai, quando il jazzista deve intervenire, no? Quello è il timing, non è la durata di un assolo, è quando tu sai che devi intervenire. E ho sentito proprio questa cosa in dicembre, già con il reportage, no? Che ho fatto per il reportage, la rivista, e per l'amore che di persone che amo. Anche questa è una novità, a volte, sai, nella comunità letteraria ci sono delle persone che, pur condividendo molte cose, non condividono gli stessi amori letterari. Invece in questo caso è avvenuto non solo che le persone che si stimano avessero lo stesso amore, ma che si conoscessero altre persone attraverso quell'amore, no? Ed è quello che è successo. In realtà l'Azione Azzeni, completamente dal basso, a partire dai grafici, dall'editore tipografo che ci ha stampati gli inviti, alle persone che si sono offerti di venire nonostante le distanze, come Marc Fork, no? Il traduttore di Azzeni in Francia, che è venuto da Lione, oppure Gio Lasuris, che verrà domani per l'ultimo appuntamento, le persone che erano qui stasera, che hanno seguito i tre appuntamenti, quindi immagino anche il quarto domani. Ed è un segnale importante questo, E un segnale che devo dire, perché nonostante quando il segnale passa, in genere, sai, l'ingessatura, no, del sistema, non, invece giornali, blog letterari, tutti, no, da Minimum Fax, no, Nazione Indiana, ma io sono un redattore di Nazione Indiana, un ex redattore perché sono uscito da un paio di settimane, ma appunto alla Poesia dello Spirito, alla Dimora del Tempo Sospeso, cioè la storia dei blog, no, in qualche modo, no, ha accolto non solo, ma le persone come spontaneamente intervenivano, no? Sono stati un motivo come stasera per andare ancora più avanti. Ma perché rivalutare uno scrittore come Azzeni? Perché in realtà, cioè, rivalutare significa che è stato valutato, in realtà non è stato valutato come Azzeni, fa parte di quegli scrittori, sai, il paragone con Pavese di prima potrebbe essere calzante, cioè Pavese fondamentalmente soffre, no, il mancato passaggio al mondo della televisione, no? Cioè, se avesse vissuto 10 anni di più avremmo avuto già un'immagine di Pavese, un Pavese in movimento che parlava, no? Registrato. Invece abbiamo appunto un'immagine che resta, no, fissa, no? Resta ancora moderna. In realtà Azzeni nel mondo della rete, no, dei blog letterari avrebbe sicuramente, secondo me, proprio perché, come ha detto stasera Giovanni Dettori, che è uno dei maggiori poeti sardi che vive qui a Torino, era un inventore di lingua e di paesaggi, cosa che la rete domanda di fare, e tu lo sai benissimo perché anche tu sei un, no, un inventore di mondi e di pratiche. E quindi non si tratta, come dicevo prima, di valutare, cioè quindi di rivalutare, ma fondamentalmente proprio di raccogliere il testimone. Cioè, Bellas Mariposas è un'opera incompiuta che però permette in qualche modo un discorso, ok? E quindi un post, no? Che va raccolto. E quindi alla una letteratura sempre più standardizzata, no? Schiavizzata in uno strano, no, neutro, okay? Lessico, sintassi, no? da scritto bene. La letteratura non è qualcosa scritta bene, la letteratura è, come tu sai, no? Sangue, polvere. Infatti, in un momento in cui, in un paesaggio dominato dai ragionieri della parola, no? Di quelli appunto che si fanno pagare la parola, il carattere, ritornare un attimo alle origini, no? Alla necessità del racconto, all'oralità della tradizione, cosa a cui lui ha attinto, no? Secondo me è un segnale importante. Al Salone del Libro Ondivago si è soffermato su una iniziativa editoriale singolare. Pagine di antologie poetiche sotto forma di segnalibri. Uno per autore. Siamo allo stand di La Vita Felice. Al microfono Diana Battaggia. Curiosità, ecco, è una curiosità che ci piace presentare durante questa edizione del Salone del Libro, e prevede quindi la partecipazione di autori che scrivono versi, di poeti già affermati del panorama contemporaneo, di autori esordienti o emergenti. Il progetto nasce per avvicinarli alla casa editrice, infatti è riservato ad autori che non avevano mai avuto un contatto diretto. Un piacere da parte dell'editore di poter annoverare in una grande famiglia un numero maggiore di persone che sicuramente sono dotate di una sensibilità particolare, di un'attenzione ovviamente a quella che è la stesura del verso. L'iniziativa prevede 4 piccole antologie, ognuna è composta da 21 segnalibri disegnati appositamente da Ilaria Curti, che è una disegnatrice professionista di Milano. Sul retro ogni segnalibro porta un testo inedito di autori diversi. Sono stati sottotitolati dal titolo originale, che è Sfrutta il segno, con frutti, diciamo, particolari di stagioni. Infatti abbiamo anguria, pera, noce e ciliegie, che stanno a indicare appunto le diverse stagioni. Non sono tematiche, ogni autore poteva inviare un proprio testo, ripeto, inedito, ma non necessariamente a tema. Siamo stati noi che poi, una volta che abbiamo avuto questo materiale, abbiamo un po' assemblato in base a quello che poteva essere la nostra percezione. Bene, quindi un benvenuto in poesia a 84 autori che troveranno dimora nella Casa della Vita Felice. Grazie. Fra gli autori presenti nella raccolta segnalibrica abbiamo Silvia Rosa, poetessa, che ci legge il suo brano. Se per tutte le volte che ti ho detto ti voglio, t'avessi davvero sfiorato, il tuo corpo ora assomiglierebbe a quello levigato d'una statua, all'involucro di marmo consumato, che si prega santo, inginocchiandosi, aspettando il miracolo del sangue che pianga, che si faccia carne, amore, vita, morte condonata, nel tepore d'un abbraccio, donandosi. Vi ricordiamo che la pubblicazione si intitola Sfrutta il segno e comprende 4 antologie edite dalla Vita Felice. Cooperativa letteraria. Con questo nome che esalta con un gusto leggermente retrò il ruolo della collettività letteraria, presenta le sue attività un'associazione culturale emergente sul territorio torinese. Caterina Arcangelo, Salvatore Sblando e Marco Annichiarico sono i fondatori. Cosa avevamo ben in mente non lo sapevamo, no? Solo organizzare incontri, insomma parlare di libri, di letteratura e di poesia, cercare di far convergere più o meno i nostri interessi. Poi è successo che abbiamo stilato questo progetto perché ci siamo ritrovati a fare una serie di eventi che ci hanno più o meno portati a questa destinazione, che è il progetto Babel sulle tracce di una radice comune. In questo progetto c'è un programma più o meno ampio, perché all'inizio c'è comunque l'idea era quella di creare un punto lettura dove far arrivare libri di alcune case editrici, da lì organizzare degli eventi, e questo punto lettura serve da comunque per i cittadini della zona come un punto di incontro, di aggregazione e di consultazione gratuita dei testi, insomma. Poi organizziamo degli eventi perché una volta che siamo in contatto con gli editori ci mandano delle novità editoriali, poi naturalmente alcuni libri li presentiamo, e organizzando così un evento aperto con cadenza bimestrale, e con cadenza bimestrale esce anche la nostra rivista dove parliamo delle nostre novità editoriali, delle novità editoriali che arrivano al punto lettura. Poi abbiamo un altro programma che è Lettura di Traverso, quindi un gruppo di lettura. Siamo partiti con gli autori di Torino, ma abbiamo idea anche di allargare il giro anche ad autori di Milano, comunque vicini, insomma, poi vediamo, questo dipende anche dalle spese, semmai Italia, dove devi tagliare. Lì incontriamo, abbiamo un sito www.cooperativaletteraria.it, poi abbiamo il blog La Rosa in più wordpress.com, trovate anche su Facebook. Allora, i nomi dei principali protagonisti di questa esperienza sono Caterina Arcangelo, vai tu, Salvatore Sblando e Marco Annichiarico. Poi voglio ricordare che abbiamo un progetto destinato alle scuole. Poi Labirinti Festival con bando di concorso, perciò facciamo anche un'attività di scouting, poi le opere che riteniamo migliori, insomma, le proponiamo a delle case editrici tramite una sorta di concorso, ma sul sito troverete tutto. E le Letture di Traverso invece sono dei gruppi di lettura, dicevo, incontriamo l'autore dopo che il gruppo ha letto il libro. Ok, vi ringrazio. Legata ad un'attività letteraria che parte dal basso è anche l'attività di Andrea Bolfi, il cui festival di poesia di strada ha valenza di comunicazione sociale in una zona popolare come quella in cui si inserisce la Cascina Roccafranca. Il Festival Poesia di Strada nasce come esperienza nuova, come esperienza di coniugare la poesia, seppur romantica, e collegandola alla strada, collegandola alla poesia di protesta, ricordandosi che non siamo soltanto dei poeti che pensano al sole, al cuore, all'amore, ma anche alle cose di tutti i giorni che spesso portano a grandi slanci emotivi. Ottovolante è una esperienza rassegna di poesia nata all'interno della galleria Arte Città Amica, nella quale cerchiamo di fare sinergia tra arte e poesia. Su ogni ottovolante partecipano circa 4 o 5 poeti con le loro caratteristiche, le loro competenze poetiche e artistiche, e cerchiamo di comunicare poesia a voce alta soprattutto. Ondivago vi ringrazia per aver ascoltato, per aver scartato la sua scatola letteraria e vi dà appuntamento sul sito ondivago.com e sul nostro gruppo di Facebook. Ondivago è un programma ideato e condotto da Max Ponte, alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Ondivago.com.